la lettera di un signore che si chiama Hermes Carra e che l'ha fatta scrivere al figlio Giacomo. Capirete poi sul durante il perché. Chi le scrive è un vecchio ormai acciaccato tifoso juventino dell'Emilia. Non seguo più la mia Juve dall'estate 2006, da quando il calcio si è fatto sporco. E adesso, dopo 70 anni di Juve, alla domenica porto i miei nipotini al parco provando immensa gioia, visto che sono bisnonno. La prima volta che andai allo stadio mi portò mio padre. Ancora i bambini non pagavano, si guardavano le partite nel parterre. Vidi Juventus Reggiana, la partita finì 5-0 e ancora oggi mi ricordo come fosse ieri il gol di Carlo Bigatto. Chissà chi era Carlo Bigatto, il 3 gennaio del 1926. Corso Marsiglia a Torino, c'erano ancora le carrozze e i cavalli e io avevo 6 anni, quindi questo signore quest'anno ne compie 90. Da quel dì iniziò il mio amore per il calcio a tinte bianconere, che mi portò a ammirare i Boniperti, Sivori, Parole, Ciarsi, Platini, fino all'ultima partita che vedi allo stadio, Juventus-Liverpool all'Aisel. Da quel giorno giurai a me stesso che non avrei mai più messo piede all'interno di un campo e lo feci. Quando oggi sento invocare dai giovani il ritorno di Moggi, mi rattristo. Moggi ha rovinato la Juventus, ricordiamocelo sempre. Le ultime vittorie juventine, purtroppo, non erano limpide e si vedeva a occhio nudo. Bisogna avere ora la forza di scrollarsi di dosso e ricominciare assolutamente a giocare e a vincere come la Juve ha sempre fatto, ma senza arrampicarsi sugli specchi, senza fare di ogni erba un fascio, perché lo stile Juventus era quello di Boniperti presidente e non quello delle aule di tribunale. Ringrazio mio figlio per aver trascritto questa lettera, io non sarei stato capace perché sono troppo vecchio, un po' sordo e ormai ci vedo poco. Spero in una sua risposta in radio, l'ascolto tutti i giorni. Saluti da Hermes Carra e da suo figlio Giacomo. La risposta non può che essere evidentemente un abbraccio ad un novantenne che ha ancora questa memoria e questa lucidità e questa capacità di giudizio.